Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Ed eccoci puntuali per il nostro appuntamento domenicale. Buonasera a tutti da parte di Gesi e di Antonio. Caro Antonio, abbiamo ormai quasi finito il mese di gennaio. Tempus fugit, come dicono. Ma troppo in fretta. E pensare che io amo molto gli orologi, no? Ah. Gli orologi, specialmente quelli da muro, che segnano il tempo. Tempo, pensare che ogni minuto che passa, vabbè. Scandisce. Allora Antonio, a te la... Allora, diamo un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto per questo percorso ideale nei sentieri della memoria. Ricordiamo innanzitutto il nostro indirizzo internet, che è bluradioveneto.it, il numero di telefono per sms, consigli, proposte, suggerimenti, critiche ed altro è il 346 23 20 033. Ricordiamo anche che è possibile l'ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione, senza dimenticare un saluto al nostro regista e al nostro coordinatore, ecco, naturalmente. Al nostro Mirko. Esatto. Bene, allora stasera, caro Antonio, abbiamo due ospiti veri questa non volta. Non ci facciamo mancare niente. No. Avremo il dottor Tony Basso per la storia di Treviso e l'architetto Giorgio Fantin che ci terrà un po'... così allegri, parleremo di feste, di recupero di tradizioni, certo. E intanto andiamo con la prima canzone in programma, che è cantata da Ron ed è Vorrei incontrarti fra 100 anni. Ottimo auspicio. Vorrei incontrarti fra 100 anni. Penso al mondo fra 100 anni, ritroverò i tuoi occhi neri, tra milioni di occhi neri, saranno belli più di ieri. Vorrei incontrarti fra 100 anni, rosa rossa tra le mie mani, dolce profumo nelle notti, abbracciata al mio cuscino, starò sveglio per guardarti nella luce del mattino. Questo amore più ci consuma, più ci avvicina. Questo amore è un faro che brilla. Incontrarti fra 100 anni, combatterò dalla tua parte, perché tale è il mio amore, che per il tuo bene sopporterei ogni male. Vorrei incontrarti fra 100 anni, come un gabbiano volerò. Sarò felice in mezzo al vento, perché amo e sono amato da te, che non puoi cancellarmi e cancellarti non posso. Voglio amarti, voglio averti e dirti quel che sento, abbandonare la mia anima chiusa dentro nel tuo petto. Chiudi gli occhi dolcemente, non ti preoccupare, entra nel mio cuore. Lasciati andare, oh, questo amore più ci consuma, più ci avvicina, oh, questo amore è un faro che brilla in mezzo alla tempesta, aver paura. incontrarti fra cent'anni. Tu pensa al mondo fra cent'anni, oh. Ritroverò i tuoi occhi neri tra milioni di occhi neri, saranno belli più di Eccoci di nuovo in studio e ci ha raggiunto il dottor Tony Basso. Caro dottore, ben trovato e buon anno. E buon anno anche buon a lei anno. E a quanti ci stanno ascoltando. Avevamo lasciato sospeso il discorso l'ultima volta sui mercati trevigiani, i mercati che avevano una notevole rilevanza nel rifornimento delle case e delle aziende trevigiane, perché i negozi come ci sono oggi con tanto di vetrina non esistevano, o perlomeno non avevano quella estensione e quella diffusione che hanno adesso, erano molto pochi e quindi l'approvvigionamento di materiali occorrenti quotidianamente, come i viveri per esempio, venivano acquistati soprattutto al mercato. Dicevamo che uno dei mercati più interessanti, come ancora oggi è quello bisettimanale che si è tenuto a partire dal 600 all'interno delle mura nella piazza attuale Matteotti, piazza Borgo Mazzini e viale Borchellati. Ebbene, qui arrivavano le merci anche per incrementare questa attività, questo ingresso di merci dalla periferia. Proprio nel 600 c'è stato un invito a questi mercanti di offrendo loro il beneficio di un mercato franco, cioè di non pagare il dazio per le merci che venivano vendute all'interno della città. Naturalmente merci che arrivavano con i mezzi, i veicoli a trazione animale, perché i camion sono una invenzione della fine dell'Ottocento e degli inizi del Novecento. Sarà anche interessante sì, valutare la trasformazione che ha avuto la città in conseguenza dell'introduzione dei veicoli a trazione meccanica, in accompagnamento prima e dopo in pressoché totale sostituzione poi dei veicoli a trazione animale. Ma pensiamo ancora che alla fine dell'ultima guerra, quindi parliamo di 60 anni fa, la quota di veicoli immatricolati, perché erano tutti immatricolati anche quelli a trazione animale, era superiore a quella dei veicoli a trazione meccanica. Quindi la ricostruzione di Treviso dopo i bombardamenti, dopo la guerra, è stata fatta molto anche proprio con i carri trainati dai cavalli che portavano in città la ghiaia, la sabbia, la calce e portavano fuori città le macerie. Quindi è stata una impresa ancora coraggiosa a vederla oggi, che siamo abituati alla meccanizzazione di tutto quanto quello che svolgiamo. Nel 1960, dottore, c'erano ancora le carrozze. Mi ricordo che mia mamma era venuta a trovarmi e ha preso proprio la carrozza per venire a casa mia, una specie di taxi, insomma. Sì, sì, sì, le carrozze, credo che una delle ultime, io ero ancora studente al liceo Canova e gli amici che giungevano a scuola con il treno ci avvisarono che di lì a pochi giorni sarebbe cessato il servizio delle carrozze dalla stazione ferroviaria al centro della città e quindi noi ci precipitammo, così la bravata che si facevano da ragazzi, ci precipitammo alla stazione in modo da arrivare trionfalmente a scuola con la carrozza, ma parlo degli anni 50, parlo, quindi siamo ancora prima di quella data che lei riferisce. Sì, degli anni. Ma era l'ultima, cioè ti era una sola in stazione, forse ancora per così. Per... Ecco, le carrozze una volta era veramente un'impresa quella di viaggiare la luogo di stazionamento delle carrozze in città. Era al bivio che praticamente dove adesso c'è la piazza della Borsa, e di quella località era chiamata Inoli proprio perché c'era la sosta dei cavalli e delle carrozze che ne venivano noleggiate. C'era anche uno stallo lì, lo stallo che è stato dipinto dal pittore Luigi Serena, si vede l'interno, e all'esterno fu composto quel capitello che adesso si trova sul lato di via Toniolo dell'edificio d'angolo, ma quello si trovava invece proprio a fianco dell'ingresso di questo stallo che c'era lì a Inoli, vicino quindi al Palazzo dei Telefoni, perché mettersi in viaggio bisognava raccomandarsi l'anima a Dio, perché le strade intanto non erano le strade asfaltate che noi conosciamo, ma soprattutto c'erano anche i pericoli dell'incursione da parte di malintenzionati che potevano aggredire questi viaggiatori che naturalmente non viaggiavano con scorta, viaggiavano a tutto loro rischio, e siccome molto spesso quelli che potevano prendersi il lusso di viaggiare con la carrozza erano anche persone benestanti, ecco che gli aggressori li avevano presi di mira perché potevano anche sperare di raccattare qualcosa, di fare un bottino. Come si deve. Ogni epoca si ha avuto le sue, ecco, quindi le carrozze a cavallo, ma ripeto, ci sono state fino alla metà del nostro secolo. L'avvento dei veicoli a motore trova Treviso direi quasi all'avanguardia, perché una ditta di Roncade di Carlo Menon, che costruiva biciclette, ha cominciato anche a produrre le prime automobili, e ancora la Fiat non c'era, e quindi questa avventura dell'automobile deve a Treviso una tappa molto significativa. Le prime manifestazioni sportive automobilistiche su strada presero in considerazione anche l'opportunità di far tappa a Treviso, e noi troviamo nella raccolta dei manifesti della nostra raccolta Salce, troviamo dei manifesti che reclamizzano queste prime avventure sportive, perché avventure veramente erano all'inizio del secolo, con il transito per Treviso delle automobili. Scusi dottore, ma questa impresa, questa ditta Menon, poi si è allargata, è diventata costruttrice di case, perché in altri settori, diciamo, sì, in altri settori. Sì, la produzione di veicoli, di biciclette e di automobili è venuta meno, naturalmente, sì. Anche perché le grosse industrie del Piemonte e della Lombardia, la Fiat, prendiamo, esatto, una per tutte, comincia a prendere il sopravvento e produrre su larga scala questi veicoli che vengono adibiti al trasporto delle persone e delle merci. Anche gli autobus che non esistevano a un certo momento, c'erano le carrozze per molte persone, le giardiniere che facevano servizio. Per esempio, si racconta che da Treviso per andare alla fiera venivano durante le fiere di San Luca, c'erano delle corse organizzate con le giardiniere che portavano le famiglie dal centro della città a Sant'Ambrogio di Fiera. E quindi un servizio pubblico esisteva anche con le carrozze. Ma sul modo di vivere credo che sia interessante anche considerare altri fatti. Abbiamo parlato di motorizzazione, di meccanizzazione. Tutto questo grazie all'uso del motore a scoppio, quello che abbiamo considerato adesso, ma un'altra fonte di energia per il movimento delle macchine è stata l'elettricità, e quindi la creazione di fonti energetiche elettriche è cominciata all'inizio e alla fine dell'Ottocento, ed è stata con la produzione di energia elettrica ad uso di illuminazione pubblica. Non c'era ancora la distribuzione di corrente elettrica per le case, ma è cominciata poi a diffondersi alle industrie, tanto che alcune aziende crearono delle piccole centraline idroelettriche a proprio uso. Per esempio quella che c'era al Ponte San Martino, dietro alle spalle del monumento della Stele a Dante, lì c'era un'industria che era stata creata da Prete, che era un fabbricante di birra. Lui aveva la sua fabbrica di birra verso Fiera, lungo la Restera, sul canale del Cristo, e lì aveva una centrale elettrica, e poi ritenne utile fare un'altra centrale in piena centro cittadino, e così cominciò anche la distribuzione e l'utilizzazione da parte dei privati della corrente elettrica, che da sola fonte di illuminazione energetica per l'illuminazione pubblica diventa anche fonte energetica per le attività industriali. E questo è un notevole passo avanti, perché sarebbe arrivato poi a comportare la creazione di reti di distribuzione della corrente elettrica, che naturalmente erano gravose per chi ne doveva beneficiare. Una volta chi voleva essere allacciato, come si dice, alla corrente elettrica, doveva pagarsi un sacco di le soldi, spese di allacciamento dalla più vicina punto di transito dei fili elettrici fino alla propria abitazione. È stato solamente con la creazione di un ente pubblico come l'Enel che si è arrivati alla distribuzione pressoché non gratuita per il consumo, ma per l'allacciamento della corrente elettrica. E la luce, quindi la corrente, è diventata una fonte energetica insostituibile, e adesso non si riesce a fare a meno di questo. Un'altra fonte energetica molto importante è stato il gas. Anche questo è stato creato per la prima volta sempre per uso di illuminazione pubblica, perché prima c'erano le lampade a petrolio, i lampioni. A un certo momento vengono muniti di un dispositivo per sfruttare il gas che arrivava con una tubatura, una rete di distribuzione diffusa in tutta quanta la città, specialmente nel centro cittadino. C'era l'accenditore di questi lampioni, che doveva aprire il rubinetto che era sotto la lampada, e con un fiammifero o con un altro dispositivo dar fuoco alla fiammella che usciva dal lampione. Quindi doveva tutte le sere fare il giro, e poi alla mattina doveva andarlo a spegnere. Si chiamava l'impissaferai, questo artigiano. Una figura particolare. Ma questo quando era? Anche i primi del Novecento? Sì. Finché si arrivò alla elettrificazione del sistema di illuminazione pubblica. Ma il gas poi è stato molto importante nell'economia domestica, perché una volta, quando non c'era il gas, c'era solamente la cucina economica per poter riscaldare e cucinare i cibi. Certo. E quindi anche d'estate, senza che ci fosse bisogno di accendere la cucina per riscaldare l'ambiente, bisognava accendere la cucina per forza per far da mangiare. Ora, il poter disporre di una fonte di calore anche d'estate senza bisogno di ricorrere alla cucina economica ha comportato una notevole riduzione nel consumo della legna da ardere, perché questa era certamente, perché si accendeva subito, e una volta usato quello che serviva si spegneva, ed è stata quindi anche quella una grossa risorsa energetica che ha cambiato il modo di vivere della nostra città, come di tutte le città. Cambiato le abitudini, che prima c'erano le bombole, no? No, le bombole sono venute dopo. dopo. Sono, sono venute dopo, quando si è trovato il piacere di usare il gas, e allora perché non immagazzinarlo e trasportarlo? Esatto. Ok, allora per stasera, dottore, ci fermiamo qua e ci risentiremo la prossima volta. Ecco, così ci parlerà ancora di tante belle cose. Sai, sono cose molto molto interessanti. Io questa mi affascina questa illuminazione a gas, così queste cose. È proprio una trasformazione. Una trasformazione. Mi affascinano moltissimo. E lei le spiega in maniera eccellente. Allora, dottore, salutiamo. E ci risentiamo. Buonasera. Buonasera. E ci rivedremo. Alla prossima volta. Oh, ringraziamo di nuovo il dottor Tony Basso e procediamo ad ascoltarci la seconda canzone in programma, che è cantata da Julio Iglesias ed è Innamorarsi alla mia età. Le fa innamorarsi alla mia età, perché tu sei il mare e io sono il cielo e non ci incontreremo. Io mi domando la mia vita che sarà, perché son cambiato, perché sono strumento del tuo sentimento. Quando io credo di averti un po' per me, te ne vai scappando, cosa vai cercando? Te ne vai lontano. Così ogni volta che torni qui da me, mi ritrovi sempre triste, sconsolato, però innamorato. Che male fa innamorarsi alla mia età? O metti di verte questo uomo inerte che insegue un sogno? Ora è più evidente se ti tengo a mente che di te ho bisogno. Con la bocca amara devo dirti cara, amo solo te. Che male fa innamorarsi alla mia età? Io che avevo fiato ora son scoppiato e ne porto il segno. Io non son la roccia che non teme scosa, son di carne e ossa. E chissà domani proprio io dirò a questo prezzo no. Quando io credo di averti un po' per me, te ne vai scappando, cosa vai cercando? Te ne vai lontano. Così ogni volta che torni qui da me, mi ritrovi sempre triste, sconsolato, però innamorato. Che male fa innamorarsi alla mia età? Ometti di verte questo uomo inerte che insegue un sogno. Ora è più evidente se ti tengo a mente che di te ho bisogno. Con la bocca amara devo dirti cara, amo solo te. Che male fa innamorarsi. E rientriamo in studio con il secondo graditissimo ospite della serata, che è l'anima della Congrega per il recupero delle tradizioni trevisane, l'architetto Giorgio Fantin, per gli amici Ciccio. Buonasera architetto. Buonasera architetto. Buonasera. Bentornato. Mi basta questo architetto, mi sono Giorgio Fantini. Giorgio Fantini. È la cosa più bella di questo mondo. Giorgio Fantini. In semplicità e in amicizia. Meno male che con lei si parlerà di feste, di libagioni. Sì, ma se appena andavo io, Tony Basso, io vorrei, non so se abbia parlato, l'ho trovato dallo spazio Bomben a parlare sui monumenti su un invito della Lauser e ognuno è intervenuto, Manzato è intervenuto, Tony Basso è intervenuto, Zan Di Giacomi, sono venute tante persone a parlarne, perché c'è un problema che sembra problema, invece non esiste mai problemi, è il discorso che noi vediamo sorgere nella nostra città dei piccoli cose, degli oggetti. Questi oggetti va inseriti su uno spazio pubblico. Quello che dico mi e sostengo, anche Manzato lo sostiene in prima persona, è che deve questo oggetto, questo regalo, perché in effetti viene regalato da tutti i buoni regali per farsi vedere, deve essere guardato un attimo, parlarne insieme con la cittadinanza, perché la cittadinanza è anche un po' sovrana e non soltanto il comune, trovare uno spazio pubblico o anche uno spazio privato. Io accennava che verso Sant'Artemio, che Zanetti Fondazione Monti con una bella scultura del pomodoro che si vede benissimo, ma perlomeno dare un luogo per questo monumento, questo oggetto. Eventualmente, mi dico, eventualmente che ci sia una commissione di due o tre bravi tecnici, bravi per la storici, valutazione della che, congruità, che diciamo, devono valutare sia l'oggetto e sia il posto. Il contesto. Basta un attimo, tre anni siamo a posto, non vogliamo niente più, non si può parlare male del monaco, di questi, del paracadutista. Sì, perché le solite diatribe, sono anche stupide. Non portano da nessuna parte. E sono anche un po' ingiuste sempre. No? Perché le critiche, sono costruttive, sono sempre... Esatto, ecco, la critica costruttiva è trovare il posto adatto tutti assieme, sarà una commissione, e vedere se queste qua stanno bene a Treviso. Certo. Questo è il discorso. Allora Tony Basso è intervenuto, è andato via adesso, dopo l'ho trovato una cena, siamo andati a mangiare pizza perché hanno inaugurato i 5 anni dell'edizione con piano, e allora ci siamo trovati assieme a parlare e avanti. Il dottor Basso sta parlando appunto della storia, ha cominciato dalle origini e adesso è arrivato all'Ottocento, il Novecento ormai quasi. Insomma, dopo perché... mi vengo a parlare di quello che Tony Basso non sa, ma insomma del 1200, per esempio a San Paolo abbiamo trovato sotto la fondamenta uno scheletro completo, mezzo dentro la fondamenta e mezzo fuori. Addirittura. Cioè? Uno scheletro? Uno scheletro. Mamma mia. Se lo stanno a suora o preti, perché c'erano prima dei frati assieme alle suore che volta adesso. Comunque veniremo a parlare. Un tesoro di storia. Benissimo. Bisogna anche delle ricerche fatte là, che bisognerà parlarne. Io volevo chiedere una cosa. La differenza tra il carnevale di una volta e il carnevale di oggi. Penso che ci sia una grossa differenza. A me fa piangere. Perché? Allora, no, io ero bello studente o dopo anche studente, c'era il carnevale la settimana dei veglioni al teatro comunale, c'era il veglione bianco celeste, c'era il veglione della stampa, una settimana di veglioni. Cinque veglioni, c'era la cavalchina degli studenti perché mi organizzava, c'era il veglioncino dei bambini la domenica, lunedì quello della musica. E il martedì grasso, che poi era il teatro comunale era adatto a queste feste, rappresentazioni, feste, diciamo, a queste feste. E adesso manca tutto. Noi anche vecchi andiamo a portare i nostri bambini a vedere il carnevale, i carri. Sì. La sfilata. Ma noi non ci divertiamo, lo anticipo, io non organizzerò, io andrò a Circolo Ufficiali il giorno 7 Giobba Grasso, sì? Trevisani in maschera. basta una mascherina almeno, se divertimo con 20 euro mangiamo e beviamo facciamo un recupero di una tradizione Beatles che batte i tamburi Beatles, è una cosa che cerchiamo di avere. Mi volevo fare anche a domenica quello dello sport, l'anno scorso l'abbiamo fatto ma non è riuscito molto e dopo mi costa sempre qualcosa e ora bisogna sempre qualcosa, si può sempre andare piano. Esattamente. E questo, allora mi spiace che questo carnevale sia affidato, no, a Trevisani sbagliamo, sia affidato alle autorità, al comune che deve farci divertire. Siamo noi che dobbiamo divertirci. Ecco, l'inversione della prova. Questo è loro fanno i soliti carri il martedì grasso. E... Faranno, io penso faranno anche delle altre manifestazioni, qualcosa, insomma, perché io avevo... detto se non ci sono le bombolette spray invito quelli gente in maschera che vanno a Venezia perché si vestono in maschera e sono sicuri di non farsi sporcare gli vestiti si potrebbero fare, c'è la dama trevigiana che adesso cerca di fare il castello da molle perciò si può trovare 30 persone che camminano per Treviso anche noi altri se vestiamo qualcosa facciamo il nostro carnevale, no? Questo è con noi, i nostri bambini, i nostri figli, lo facciamo anche noi si ricorda quando facevano i burattini. Mi ricordo ancora il carro dei Tespi in piazza Rinaldi che se si portava a carreghetta o se stava in piedi perché lì era, non c'era neanche sassi, era solo terra battuta. Mi corregga se sbaglio, io credo che questo potrebbe essere questa discrasia potrebbe essere un ottimo terreno di indagine per, che so, un sociologo come Ulderico Bernardi che potrebbe dire come si è evoluta o involuta, diciamo, la situazione nelle nostre zone. L'involuto è che ognuno pensa al suo orticello. Ecco qua. E invece queste nostre associazioni che sono di volontariato, perché siete cavi che io mi sono venuto alla festa di Santa Lucia, sono venuti due vigili a verificare se mi vendevo robe. Dove la mettiamo in testa? Dove l'avete fatta a Santa Lucia? Sulla chiesa sotto il portico della chiesa di San Vito. Ho capito. Abbiamo preso 312 euro e abbiamo dati 300 al parroco del Duomo perché c'era messo un cartello, perciò qualcuno ha versato logicamente per l'uomo. Ma queste sono cose da nel piccolo nostro facciamo volentieri, ma che offriamo tutto. Non vendiamo niente. perché non è giusto vendere, non va più la segreta, insomma, però ecco, questo spirito di volontariato qua è fondamentale. Io sono stato anche dagli alcuni, ho fatto una quindicina di associazioni, ma tutte un po' miste, mare, bisogna verificare, dare a ognuno gruppo, fare un gruppo di 5-6 e ora si può verificare. Quante associazioni sorgono, queste associazioni? Associazioni come i funghi proprio. Ce ne sono, sì, ecco, mi sembra che amiche abbastanza. Ma c'è anche troppe, perché ognuno vuol fare qualcosa o magari di più di quello che dopo si passa sopra. Insomma. Giustamente. Che perché l'associazione, insomma, poco o tanto chiede schei. Niente, ritorniamo pure alle tradizioni. Da noi come Congress, come nostra associazione, fra pochi giorni, martedì prossimo 29, facciamo la festa della merla. La festa della merla sono gli ultimi tre giorni dell'anno, più 30, freddi. Sì. E perciò è il discorso, la leggenda della merla che era bianca diventata nera, tutto quel discorso di là. Sì. La facevamo da Milano, io l'ho detto, dopo 19 il Paradiso ha finito di la sua gestione e perciò l'abbiamo fatta qua a Treviso, ecco il Durmer alla colonna e da 4 anni è da... Alfredo in via Collalto. La merla la facciamo col mangiare d'artista che intervengono tutti i pittori e pittrici, quel gruppo di pittori e con l'associanismo e il volontariato. Fanno disegni, li lasciamo là appiccicati sui muri. Bellissimo. Perché loro sono gratuiti, resta al proprietario e ci divertiamo. Questo è il discorso. Questo è lo spirito, è lo spirito di divertirsi e lo facciamo volentieri. E come pranzo cosa vi offrono? Cosa vi danno? Dopo lo leseranno, ho preparato un menù qua. Animelle, da questo, esatto. Da questo. Un pranzo luculiano? Treviso. È un trevigiano per Giorgio Fantini, esatto. E qui come io, io ero santo mangiatore, sai, così. Fate di mezzogiorno o la sera? No, la sera. La sera. Sì, sì. E dopo è dormire, sarà un po' un problema. Ma ha problemi di dormire. Io devo bere 2-3 caffè e dopo dormo tranquillo. Perciò... Ah, lei dorme anche col caffè? Io ne devo bere 3 quando l'ho mangiato. Ah, sì? Sì. Beh, il caffè è buono. Sì. Comunque, allora proseguiamo con il nostro carnevale. Io comincerei prima del carnevale, che il giorno 1 febbraio ho avuto un invito di andare a Verona a vedere una mostra di Marco Goldin. Marco Goldin è un amico, è un forte personaggio, è delizioso, fa 30 libri e scrive 30 libri. Grande uomo di cultura. Non so neanche come faccia a scrivere 30 libri. No, ma è un personaggio straordinario. Scrive proprio tranquillo, si legge volentieri. Sì, decisamente. E porta ritratti a Verona per 2 mesi. Da Raffaello a Matisse. Ah. È una cosa meravigliosa, ma mi invita alle 19:15 di sera. Ai. E tocca stare là a dormire stai, abiti fuori, vieni fuori, vedremo insomma cosa facciamo, insomma, se partiamo. Ma adesso è interessante. Però Marco bisogna rispettarlo, sta lavorando adesso alla Basilica di Vicenza. La Palladiana, con successo clamoroso. A Treviso manca. Manca le beghe o non beghe, sì, esatto. Col presidente De Poli dovevano essere superate, proprio perché Goldin è un bravo grande. Sono 200, quasi 250.000, sì, credo. Sì, avrà l'aiuto, ha avuto l'aiuto della Fondazione, senz'altro. Avrà conosciuto, sì, certo, tutti i vari direttori di museo anche attraverso la Fondazione o con i soldi della Fondazione. Però lui è andato avanti, adesso è avanti da solo. Da vederlo e da ascoltarlo lui solo, e devo dire che la sua, parlava dei libri eccetera, le pancarte, quelle le descrizioni, e io ricordo gli impressionisti eccetera, sono di una chiarezza e di un esemplare, si leggono come un romanzo, bellissime. Può leggere tutto anche un bambino, assolutamente, chiaro, chiaramente. E competenza. Ho mai letto grande niente. No, è grande. È anche un poeta, ho letto delle poesie, sì. Poesie. Un personaggio eccezionale, veramente. Personaggio, e aiuta anche gli altri, insomma. Ecco. Sì, è anche altruista. E già che ne parliamo di mostre, io ho inaugurato, è già inaugurata in essere con la Congrega, un omaggio a un pittore trevigiano che vorrei dire misconosciuto, che era uno che lavorava tinteggiatore, pittore edile col papà e col fratello di fronte dove sono nato io, in via Manzoni. Poi è andato anche in Canada, dopo lavorava a Cortina, fa dei quadri bellissimi, a me ne piace, non sono un critico, vedute delle nature morte. E come si chiama questo pittore? Si chiama Carlo Biaducci. Allora, ai due mori abbiamo fatto una cena con la Congrega e un omaggio. Quando ho sentito che stava male non ho più regolato niente in giro. Se l'ha tenuto ben d'accordo. Ne ho 25-26 quadri e poi ho appiccicato le pareti. Eccezionale. Ed è in essere per ancora un poco di tempo, insomma, ecco, visto che mi piace ricordarlo come trevigiano, insomma. Sì, okay. E quindi avete inaugurato questa mostra sempre seguita da una cena, logicamente. Congrega, programma già una volta, ci siamo offerti una cena. Allora, a proposito di cena, io prima di ascoltare la prossima canzone vorrei, su istigazione così istigazione, di Giorgio Fantini, leggere quello che sarà la merla, la verza, eccetera. Il menù del Magnard d'artista con le verze nel giorno freddo della merla, studiato dal Paron Arturo e dallo chef Massimo. Gli ospiti saranno ricevuti con prosecco, mimosa, spritz trevisan con Campari e o Aperol, crostino eccellenza del Tulà, radicchio fritto, polpette poco piccanti, mozzarella in carrozza, anelli dorati di cipolla chioggiotta, poenta rosta con bacalà mantecato. Musetto di Louison con crème fresco, nervetti con cipolla, fagioli alla moda di Massimo, saame scotà all'aceto con cipolla in saor, zuppa primizia di antica ricetta, risotto alla sbiraglia naturalmente, fiocco di vitello con patate roste e verze sofegae, animella e cervella dorata con carciofi fritti e il bocon del prete, buffet di formaggi con vari tipi di miele e marmellate, gelato di crema con caramello a radicchio, frittelle e crostoli di carnevale con carobe. Anche le carobe saltano fuori. Acqua minerale naturale gassata, vini rossi selezione Tula, vino moscato per un brindisi carnevalesco alla merla. Mamma mia. Naturalmente il versamento è anticipato. Per forza. Certo. L'anno scorso mi sono trovato presso lo studio di Giorgio Fantini, naturalmente. Ecco, grazie. Mamma mia, ecco, a che ora cominciate a mangiare? Dalle 8:15 fino a mezzanotte. Perché poi i pittori dipingono, si parlano, allora tutto quanto è bello quello. Perfetto, direi che possiamo fare un ascoltarci un'altra canzone. A questa congrega Madonna. Offriamo a tutti allora una Rosa Blu cantata da Michele Zarrillo. Bene. Una rosa snob e bionda con un filo di follia, dicono di te, pare che ci stai, che ti scaldi presto, che poi tutto il resto e non ti leghi mai, ma se fossi mia io ti legherei sulla pelle, io te lo scriverei, che mi piaci perché sei come sei, col tatuaggio, con quella rosa blu, che il tuo coraggio è la tua risorsa in più, e ti racconto di me, di lei, ma chi se ne frega, ma sì, doveva andare così, e non mi accorgo nemmeno che vuol dire ti amo, aperta di più la rosa sul tuo seno, una rosa blu che non va più via, dolce un po' perversa come un po' diversa è la tua fantasia, una rosa blu come non ce n'è, ma una cosa rara sono io stasera che la chiedo a te, io sulla pelle io me lo scriverei, l'amore in macchina no, non c'è magia, un tatuaggio perché va dove vai, al mare o dove si può purché scappare via, e mi racconto di te, di lei, ma chi se ne frega, ma sì, doveva andare così, e non mi accorgo nemmeno che ti ho detto ti amo, quando s'apre di più sul seno la tua rosa blu, se fossi mia ti legherei, ma un laccio al cuore non ci sei, me ne accorgo adesso, passo dopo un po'. Ecco, rientriamo in studio e diamo la parola al nostro Giorgio Fantin. Sempre a me. Sempre a me. Sempre, sempre. Allora, nel nostro mese di giugno, dopo quello che ci andiamo subito, che è la Candelora, che è anche non si sa neanche cosa, che è un'offerta di candele accese alla Madonna, e si dice se a Candelora non si non piove, non nevica, c'è bel tempo, si invece siamo fuori, e se invece che siamo dentro viene piove e vento. Piove e vento. Nel mese di? Di febbraio. Di febbraio, ecco, no, mi pareva aver capito. No, perché hai capito, cosa. Sì. Nel no. mese di febbraio. Il mese di febbraio, certo, cioè, il 2 febbraio. Certo. Insomma. Benissimo, benissimo. Il 3 è San Biagio. Il 3 è San Biagio. Sì. San Biagio è un personaggio a Baver di Cinconegliano, che si sta preso un affresco su San Biagio, perché era un pellegrino fra San Biagio e Calaltala, che c'è sto San Biagio che gira nel Veneto, sì, esatto. che venga dalla Germania, e là che se una volta siamo andati a vedere sto affresco, e Davide della cooperativa l'ha messa a posto, e a un certo punto mi ero sentato sul gradino, tutta la gente che andava via, e mandava fuori di fianco, perché sotto il porto con gli altri attori, insomma, su una casa privata. Sì, sì, sì. E ho sentito, Madonna lacrima, Madonna lacrima, ciao, Madonna lacrima, ciao. E ora sono da dentro, e effettivamente gocciolava, insomma, ma tutto il persone che andava dentro, era l'umidità. L'umidità del coso, il vapore della cosa, ma per un attimo, cioè, tutta la gente si suggestiona dopo la gente. È bellissimo, mi trovo mistico, insomma. Precisamente. Poi è protettore della gola, San Biagio. Sì. Dopo invece voglio ricordare i sei ceneri, perché se vogliamo parlare mai in abbondanza di mangiare, bisogna pure che giorno... Il giorno 13, sì. Vede se una presetta, sì. Una presetta di cenere sulla fronte. Poi per est e poi per ritornare. Per ricordare appunto il nostro... Mi farò probabilmente incenerire, così dopo darò qualche altro, e darò le mie ceneri alla storia. E dopo invece il giorno dopo c'è San Valentino. È vero, sì. 14, e davanti facciamo la solita segreta a Sant'Agostino, quei crosti che ne porta Ardizzoni, sempre dolcetti. Anche se il carnevale è finito, voi fate lo stesso. Non è vincolato. Non è vincolato, esatto. Nella servita, no. Insomma. Perché l'ultimo carnevale è il martedì, insomma, prima delle ceneri, insomma, sì, sempre nella stessa settimana. Insomma. Sì, quindi non è... In Lombardia, sì, il Corrito Ambrosiano, il carnevale allora finisce il dopo, il sabato successivo. Noi abbiamo vinto una volta la partita di rugby, perché abbiamo giocato la settimana dopo, dove era fatti. Tutto aiuta, evidentemente. Non è un anno bisesto, comunque quest'anno, se passato l'anno scorso, ma sarà pesante comunque. Ma ritengo di sì, l'importante è l'attitudine. E sarà elezione a fine mese, che penserà anche a cosa che c'è. E quelle comunali mi pare in maggio, no? In maggio, esattamente. In maggio, con eventuale ballottaggio in giugno. Sì, con tutte le canzoni della signora Jessie. Esatto. Vorrei ricordare che una ragazza del rugby femminile che ha già con me al tempo mio, e con Passerini, che è il giornalista della Tribuna, ha inciso un disco. Bene. Canzone del rugby. No. Mi sei anche qualche parolaccia. Cioè, la canzone sportiva, i veterani, così. Però ha fatto un disco. Canzone del rugby, ma la prima volta volta credo che si faccia nella storia. Le costa i suoi vari locali dove che va, poi rugbyisti li vende. Il terzo, dove che va il terzo tempo. Il terzo tempo, però è una canzone che cantavamo una volta il Treviso, uno squadrone. Penseremo anche a questo, Antonio. Sono tutte chicche. Sono raramente vengono conosciute, se non c'è chi le dice. E poi con la congrega io vorrei far conoscere a quei possibili sempre di più trevigiani, e dovrei fare anche a Tony Basso far conoscersi per la nostra città. E per esempio ogni anno porto a vedere una compagnia, a vedere le mostre dei Carraresi. Quest'anno finisce a giugno, a maggio andrò con una compagnia dei vinti, se divertimo. vedemo la compagnia di scorso, extra Trevisani, quindi no, Trevisani, di Trevisani proprio. Veterani sportivi, ma gli amici anche. Sì, sì, sì, sì. Dopo l'anno scorso venivo anche a Madaro a spiegarne, dopo devo vicino a Cordero, mangiamo, beviamo. Beh, ecco, questo è il terzo tempo è il sacco del rugby. Anche diciamo, quello, ma è un tempo che va bene anche per lo spirito. Assolutamente, dopo ritemprare insomma, dopo le fatiche, giustamente. Bisogna sempre correlarlo comunque. Sì, sì, il fatto sì, che questo è decisamente meritorio proprio per la desertificazione culturale che è in atto da qualche decennio. Ma sì, ma vorrei sapere chi sia che ha visto il museo tutto intero. No, ritengo pochi. Ecco, molto pochi. Bisogna fare che vedere, tanto che c'è una sezione archeologica messa a posto benissimo, meno, ma tutto da vedere, anche andare a vedere questo. E si è restaurati di quello di Sant'Orsola. Sant'Orsola. E dentro c'è San Caterina, bellissima, con gli affreschi che si deve vedere. E se esiste affreschi di Sant'Orsola che va via da Santa Caterina, da vedere, mi vorrei sapere quanti trevigiani che credo, in piazza e dice meglio che ne credo in piazza, decisamente ma... pochi. Molto bella la storia di Sant'Orsola. Noi abbiamo l'anno scorso, abbiamo fatto una mostra di fotografie sportive. Sulla chiostro ci hanno dato e ne ha detto, ma sato che abbiamo più visto persone, 10-15 persone al giorno, e dei mostri va a vedere una persona due al giorno. Una persona due al giorno? Sì, decisamente. Bisogna darsi da fare. Occorre trovare un nuovo modo per acclimatare, per incuriosire ed attirare queste persone. Queste piccole società deve fare volontariato. Volontariato, azione proprio di trascinamento, di traino. Esatto, questo. Sì, perché città la nostra cultura, insomma, la nostra certo, vita. Certo. È anche una questione di, come dire, di sopravvivenza spirituale, sì, mentale, sì, credo sì, io, alla fine, sì, perché sì, altrimenti proprio una desertificazione in atto, che è una roba tremenda, la televisione, soprattutto quella commerciale, che crea dei danni tremendi. Purtroppo e sì. E ritorneremo a leggere libri. Ecco, libri è una chicca in proposito sul Corriere di ieri, mi pare di questa mattina. I giovani, che i nativi digitali, sono quelli che maggiormente ricercano i libri stampati. Questa è una notizia che dovrebbe far andare in sollucero praticamente gli editori, gli autori, eccetera. Il che significa che non è vero che bisogna dar per scontato che la digitalizzazione porta, come dire, l'ebook, eccetera. Sì, ma saranno affiancati. Posso dire che Gino Taranto, che è ancora vivo, sono passato proprio avanti perché io che ne parlo adesso. E se io che mi ha detto, mi dicevo Dostoevskij, perché mi fa guerra e pace, leggi questi, ero pesantotti, sti russi. Ho cominciato quel cronim, ora lei era... Le stelle stanno a guardare, tutti belli, mattoni. E dopo un giorno mi ha detto Steinbeck. A Steinbeck, bellissimo Steinbeck. E ora per me mi sono fermato, invece dopo Toe, metto qua, leggi sto libro qua, mitico Toe, Joyce, mi metto un libro di Ulisse. E mi ha detto, ma sei grosso così, tu ma leggi, mi ha detto. E ecco, adesso amico, è bello, deve essere bellissimo. Ognuno, non altri. Esatto, sono esperienze straordinarie che bisogna instillare negli altri. Esatto. Ma la lettura è veramente qualcosa di È una grande, cosa straordinaria. No? La prossima volta porterò qualche cosa di qualche citazione di studi recenti, eccetera, che danno proprio queste indicazioni straordinarie. A me hanno detto che con questo ebook il fatto di non dover girare le pagine dà un po' fastidio, perché la gente è abituata a girare le pagine. Sì, ma poi sono cose che bisogna vedere nel lungo periodo. Sì, diciamo. No, io Simeone, che va a trovare la figlia e gli regala un piccolo computer, va in Scozia. E io leggo, ho 3.000 libri certo. Mi dico, come hai fatto a leggere? Ma io alzo e slago, però non sono capace. No, ma da un punto di vista, anche perché i lettori sono in gran parte, come dire, persone di una certa età, quindi parte quelli che lo fanno per motivi di studio e che dopo aborriscono la lettura dei libri, ma gli altri non sono nativi digitali, quindi ha bisogno di sfogliare, girare la pagina, il profumo così, della carta stampata, chiaramente. Così mi diceva una persona. No, ma è esattamente questo. Sì. Va bene. Allora, ascoltiamo l'ultima canzone in programma. Mamma mia, ma il tempo certo tempo che... corre velocemente. Chiudo d'ore oggi. Va bene. Ci ascoltiamo una canzone moderna, sì, cantata da Francesco Renga, Un giorno bellissimo. È già mattino e fuori piove, ti sento respirare, sei qui vicino a me, mi volto tanto piano e il tuo profumo riempie il mio cuscino di cose che vorrei. Siamo di nuovo in studio con l'ultima brevissima tranche con il nostro amico Giorgio Fantini. Ecco. Come allora, che fa brevissima tranche, mi dica Jessica, come ci facciamo? Qualche considerazione, qualche abbiamo proprio molto. Qualche piccola notizia. No, il discorso qualche piccola notizia, la considerazione mia è che a fine mese andiamo a votare. E ne ha me testa che gira tutto, questo è un circo, questo. Cioè, siamo in mezzo a un circo. Ma se il circo divertisse, se si diverte anche noi altri, invece è un circo per loro conto e dice Dio far quello che vuole loro. È un circo triste. Bisogna pensare bene a chi che si dà un voto, perché i prossimi anni l'anno stanno qua, sarà ancora duro, ma anche credo il 14 ho l'impressione che nulla sarà come prima. E bisogna che prendiamo coscienza di chi che siamo, ma anche come trevisani dopo, che questo, per la città di Treviso. Questo. Il problema è che siamo un po' smemorato, invece dovremmo ricominciare. Non sono buono a pensare a chi è uno e altro. Come che ti senti uno, che ragione, come senti l'altro, che ragione. Sì. Bisogna ponderare bene le questioni. Mi cerco di non sentire, non crompo più i giornali durante la settimana. Per non farsi sangue cattivo. Sì, su serie, perché sono notizie cattive, poi i giornalisti si anche... per attirare loro, c'è il loro mestiere, sì. Chiaramente. Comunque non è facile non votare, facile. Non è facile, perciò bisogna che abbiamo la serenità invece di pensare un attimo e di dire nel nostro, mi dico, breve futuro, anche nei nostri quattro anni prossimi, cosa è che avremo bisogno. Non bisogna di una persona di fiducia che sia integerimo, che non che saranno neanche tutti quanti sbagliamo. Abbiamo bisogno di reintegrare i legami che si sono spezzati, i vasi comunicanti che c'era una volta, non sarà i vasi comunicanti, non è facile, no. Ma bisogna agire in quella direzione, credo. È vero. Non sarà semplice, ma bisogna farlo. Assolutamente. Cioè, siamo partiti da dopo l'Italia, che era dopo la guerra, siamo partiti con 20.000 partiti, con tutti i partiti, mi si è messo d'accordo per mandare avanti l'Italia. E attenzione, Ho fatto Costituzione, insomma, mi sentivo, bisogna ripetere a tutti quanti, la Costituzione che ha detto... il nostro amico alla in televisione. Sì. Cioè, occorre, semplicemente occorre ritornare a pensare con la propria testa, che questa sia una cosa assolutamente fondamentale. Sì, ma anche se tu pensi con la tua testa, è un problema, cioè non... Sia un po' nel caos. Non ci sono ricette preconfezionate come quella del tiramisù o cose di questo tipo, purtroppo. Bisogna stare molto, molto, molto, molto attenti a quello che si fa, perché a me che il mio voto solo, ma insomma uno più. Ma è una questione di coscienza civile, sì, bisogna recuperare quella dimensione che abbiamo smarrito. Coscienza civile, perché mi venivo fuori dalla parrucchietta e ora una volta mi ricordo Dio ti guarda, se cosa che voglio e invece non è vero, ma bisogna avere senso pratico, insomma. Sì, sì, niente, qui sono tutte considerazioni, come dire, a latere. Tradizioni, però sono fondamentali. Occorre che un popolo smemorato diventi un popolo attivo. Il controllo sociale è fondamentale, ed è quello che ci manca fin adesso. Questo è. Quindi non ci resta che dare, naturalmente, a malincuore, a dire arrivederci alla prossima volta. E ringraziamo Fantini, il nostro Giorgio Fantini. Sì, che sempre. E alla prossima volta con la ricetta del tiramisù. Non so se la prossima volta, ma insomma. Vediamo, che noi contiamo sulla sua presenza. Non posso buttare. La subito no, quando che farò vediamo io ce l'ho perché da casa lato viene fuori da posti innominabili, ma... Perfetto, ringraziamo naturalmente Fantin. Il nostro Giorgio Fantin, e salutiamo tutti i nostri ascoltatori. Un saluto anche a te, Antonio, grazie a voi e agli ascoltatori. Grazie. Come sempre io vi dico ciao, grazie. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.